alta voce. Massimo Popolizio legge Nos, il naso, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi. Il giorno 25 di marzo seguì a Pietroburgo un fatto stranissimo. Il barbiere Ivan Yakovlevich, domiciliato alla prospettiva dell'Ascensione, il cognome è andato perduto e neppure la sua insegna, dove era presentato un signore con le guance insaponate e la scritta «Si cava anche sangue», ne dice di più, il barbiere Ivan Yakovlevich si svegliò abbastanza per tempo e sentì un odore di pane caldo. Sollevatosi un poco dal letto, vide che la consorte, dama assai rispettabile e amante del caffè, tirava fuori dal forno dei pani appena cotti. «Oggi, Praskovia Osipovna, non voglio del caffè», disse Ivan Yakovlevich. «Mangerò invece un pane caldo con cipolline». Ossia, Ivan Yakovlevich avrebbe voluto l'una cosa e l'altra, ma sapeva che era del tutto impossibile chiedere due cose insieme, giacché a Praskovia Osipovna non piacevano affatto simili capricci. «Mangi pure il pane, lo sciocco per me è tanto di guadagnato», pensò fra sé la consorte. «Mi rimarrà una porzione in più di caffè», e buttò un pane sulla tavola. Ivan Yakovlevich, per decenza, infilò il frac sulla camicia e, sedutosi a tavola, si versò del sale, mondò due teste di cipolla, diede di piglio al coltello e, facendo un viso compreso, cominciò a tagliare il pane. Divisolo in due parti, vi guardò dentro e, con sua meraviglia, vide qualcosa di biancheggiante. Toccò col coltello cautamente l'oggetto, lo palpò col dito. «È consistente», disse fra sé. «Che sarà mai?» Introdusse le dita e tirò fuori un naso. Ivan Yakovlevich restò di princisbecco. Si fregava gli occhi e di nuovo palpava l'oggetto. Un naso. Un autentico naso, e per supermercato si sarebbe detto un naso familiare. Il terrore si dipinse sul volto di Ivan Yakovlevich, ma questo terrore era un nulla aspetto al malumore che invase la consorte. «Dove diamine sei andato a staccare un naso, animale?» gridò essa con ira. «Radica di furfante, ubriacone! Io stessa voglio denunziarti alla polizia! Guardate un po' che razza di masnadiero! Già io avevo sentito da tre persone che quando fai la barba strapazzi tanto i nasi della gente che a malapena si reggono!» Ma Ivan Yakovlevich era più morto che vivo. Aveva riconosciuto come quel naso d'altri non fosse che dell'assessore di collegio Kavalyov, al quale faceva la barba ogni mercoledì e domenica. «Un momento, Praskovia Osipovna, l'avvolterò in un cencio e lo metterò in un angolo. Lasciamolo lì un pochettino e poi lo porterò via». «Ma neanche a parlarne! Io permettere un naso tagliato di restare nella mia camera! Vecchia brenna arrembata! Non sa far altro che strofinare il rasoio sul corame e presto non riuscirà più di fare il dovere suo, il cialtrone, il mascalzone! Io rispondere per te alla polizia! Tu, porcaccione, stupido come un ciocco, fuori di qua! Il naso, fuori! Portatelo dove ti pare, che non ne senta neanche il puzzo!» Ivan Yakovlevich restava come fulminato. Egli pensava, pensava, e non sapeva che pensare della faccenda. «Il diavolo sa com'è successo», disse alla fine, grattandosi dietro l'orecchio. «Se son tornato ubriaco ieri sera o no, di certo io non saprei dirlo, ma però, da tutti gli indizi, si tratta di un fatto inverosimile. Perché un pane è un affare da forno e un naso è tutta un'altra faccenda. Non ci capisco un'acca!» Ivan Yakovlevich tacque. Il pensiero che i poliziotti avrebbero potuto trovare il naso a casa sua e incolparlo lo gettava in una completa confusione. Già gli balenava la mente un colletto rosso bellamente ricamato d'argento, una sciabola, ed egli tremava per tutto il corpo. Infine afferrò le mutande e gli stivali, infilò i suoi stracci e, accompagnato dalle violente imprecazioni di Praskovia Osipovna, rinvoltò il naso in un cencio e uscì sulla strada. voleva buttarlo da qualche parte, in un pilastrino sotto qualche portone, o lasciarlo cadere così, come inavvertitamente, e scantonare poi per un vicolo. Ma neanche a farlo apposta non faceva che incontrare conoscenti, i quali lo apostrofavano: «Dove vai?» oppure: «Ah, a chi vai a fare la barba così presto?» Sicché non gli riusciva di trovare il momento favorevole. Una volta non di meno lasciò cadere il naso, ma un vigile glielo indicò da lontano con la alabarda, dicendo: «Madam, che hai perduto qualcosa, raccattalo!» E a Ivan Yakovlevich gli toccò raccattare il naso e ficcarselo in tasca. La disperazione lo prese, tanto più che la gente diventava ogni momento più numerosa per le strade, a man mano che cominciavano ad aprirsi i magazzini e le botteghe. Decise di andare al ponte Sant'Isacco per vedere se in qualche maniera gli riuscisse di buttarlo nella neve. Ma un certo rimorso di non aver detto nulla finora di Ivan Yakovlevich, personaggio degno per molti riguardi. Ivan Yakovlevich, come ogni artigiano russo che si rispetti, era un terribile ubriacone. E quantunque ogni giorno radesse gli altrui menti, il suo proprio non era mai rasato. Il frac di Ivan Yakovlevich non portava mai redingot, era pomellato, ossia era nero, ma tutto pieno di pomellature giallo-brune e bige. Il collo lustrava e al posto dei tre bottoni non erano rimasti che pezzi di filo. Ivan Yakovlevich era un gran cinico e quando l'assessore di collegio Kavalyov gli diceva, come appunto avveniva comunemente durante la barba: «Le tue mani, Ivan Yakovlevich, puzzano eternamente», allora Ivan Yakovlevich rispondeva: «Perché poi dovrebbero puzzare?» «Non lo so, fratello, il fatto è che puzzano», diceva l'assessore di collegio, e Ivan Yakovlevich fiutava una presa di tabacco, si metteva a insaponarlo per rappresaglia sulle guance, sotto il naso, dietro l'orecchio, sotto la barba, insomma, dovunque. Gliene saltava luzzolo. Questo degno cittadino aveva ormai raggiunto il ponte Sant'Isacco. Egli prima di tutto si guardò attorno, quindi si sporse dal parapetto quasi a guardare sotto il ponte se ci fosse molto pesce e piano piano lasciò cadere il cencio col naso. Sentì d'essersi liberato di un gran peso e perfino sorrise. E invece d'andarsene a sbarbare menti impiegatizi, si dirigeva poi a uno spaccio con la scritta «Tè e colazioni», nell'intento di chiedere un bicchiere di punch, quando all'improvviso scorse in capo al ponte una guardia d'assai nobile portamento, coi larghi favoriti, tricorno e sciabola al fianco. Il cuore gli cadde ai piedi, mentre la guardia, facendogli cenno col dito ad avvicinarsi, l'apostrofava: «Vieni un po' qui, caro». Ivan Yakovlevich, rispettoso delle forme, si cavò fin da lontano la berretta e, accostatosi in fretta, disse: «Auguro il buongiorno a vostra signoria». «No, no, no, no, no, fratello, lascia stare le signorie, di piuttosto che stavi facendo là sul ponte. In fede mia, signore, andavo a far barbe e mi sono fermato soltanto a guardare come l'acqua scorre svelta». «Menti, menti, non te la caverai con questo, su, rispondi, se ti piace. Due volte la settimana e perfino tre sono disposto a sbarbare vostra grazia senza alcuna difficoltà», rispose Ivan Yakovlevich. «No, amico, queste sono sciocchezze. Me tre barbieri già mi sbarbano e se ne ritengono per di più onoratissimi. Ma ora raccontami piuttosto un pochino che facevi là». Ivan Yakovlevich impallidì. Ma qui la faccenda s'avvolge in una spessa nebbia e quello che avvenne dopo, precisamente, nessuno lo sa. L'assessore di collegio Kavalyov si svegliò abbastanza per tempo e fece con le labbra «brrr», il che faceva sempre al suo risveglio, sebbene egli stesso non avrebbe saputo spiegare perché. Si stiracchiò e chiese un piccolo specchio che era sulla tavola. Voleva dare un'occhiata a un foruncolo che gli era spuntato sul naso la sera innanzi, ma con sua somma meraviglia vide che invece del naso ci aveva una superficie perfettamente liscia. Spaventato, Kavaljov chiese dell'acqua e si strofinò gli occhi con un asciugamano bagnato. Non c'era che dire, di naso, neppur l'ombra. Si palpò ben bene per essere sicuro di non dormire. Non dormiva, no. L'assessore di collegio Kavaljov saltò dal letto, si riscosse e sempre niente naso. Egli chiese i suoi vestiti e si precipitò di filato dal capo di polizia. Ma è nel frattempo indispensabile dire qualche parola su questo Kavaljov perché il lettore possa rendersi conto di che specie di assessore di collegio fosse. Gli assessori di collegio, il cui titolo sia comprovato da attestazioni accademiche, non saprebbero in nessun modo venir confusi con quegli assessori di collegio che si trovano nel Caucaso. Si tratta anzi di due categorie ben distinte. Gli assessori di collegio accademici, ma la Russia è un tal paese che a parlare di un assessore di collegio, tutti gli assessori di collegio, da Riga alla Kamchatka, immancabilmente se la pigliano per sé. Il medesimo intendi per tutti gli altri titoli e gradi. Kavaljov era un assessore di collegio di quelli caucasici. Il titolo l'aveva ottenuto appena 2 anni prima e però non se ne poteva scordare un minuto per darci poi più gravità e importanza. Non chiamava mai se medesimo assessore di collegio, sebbene sempre maggiore. «Ascolta, colombella», diceva abitualmente, incontrando per la strada una donnetta venditrice di sparati. «Vieni a trovarmi a casa. Il mio appartamento è sulla Sadovaia. Chiedi soltanto, abita qui il maggiore Kavaljov? Chiunque te lo indicherà». Se poi scontrava qualche bel visetto, aggiungeva istruzioni segrete, concludendo «Tu chiedi cuoricino dell'appartamento del maggiore Kavaljov». Per i quali medesimi motivi anche noi, d'ora innanzi, chiameremo questo assessore di collegio maggiore. Il maggiore Kavaljov aveva l'abitudine di andarsene ogni giorno a passeggiare sulla prospettiva. Il colletto della camicia era sempre perfettamente inamidato e lindo. I suoi scopettoni erano del genere di quelli che si possono tuttora vedere sulle facce degli agrimensori regionali e distrettuali, degli architetti, dei medici militari, nonché di persone esercitanti le più diverse funzioni e, in generale, di tutta la gente che ha guance piene e robuste e gioca bene al Boston. Questi scopettoni attraversano le guance per il mezzo e arrivano diritti al naso. Il maggiore Kavaljov portava una quantità di ciondoli di cornalina, vuoi con stemmi, vuoi di quelli che recano inciso mercoledì, giovedì, lunedì, eccetera. Il maggiore Kavaljov era venuto a Pietroburgo per affari e precisamente a cercare un posto che si confacesse al suo titolo. Di vice governatore possibilmente, o semmai di ispettore in qualche dipartimento un po' in vista. Il maggiore Kavaljov non sarebbe stato alieno dall'accasarsi, ma solo ove la sposa disponesse di un 200.000 di capitale. E però il lettore può giudicare da sé quale fosse lo stato d'animo di questo maggiore allorquando si scoprì, in luogo di un naso abbastanza piacevole e a modo, uno stupido, piatto e liscio spazio. Manco a farla apposta. Non c'era per la strada barba di vetturino ed egli doveva andare a piedi, avvolto nel mantello e col viso coperto dal fazzoletto, facendo mostra ad avere il sangue al naso. Ma certo è tutta una mia idea. Non è possibile che il naso sia sparito così di punto in bianco, pensava, ed entrò in un caffè apposta per guardarsi in uno specchio. Fortunatamente nel caffè non c'era nessuno. I garzoni scopavano le stanze e mettevano a posto le seggiole. Alcuni con occhi assonnati portavano guantieri di pasticcini caldi. Sui tavolini e sulle sedie si trascinavano le gazzette del giorno precedente, imbrattate di caffè. Orso, grazie al cielo, non c'è nessuno, disse egli. Posso guardarmi. S'accostò timidamente ad uno specchio e guardò. Al diavolo, che porcheria, borbottò sputando. Se almeno ci fosse qualcos'altro al posto del naso, ma così, proprio niente. Pieno di dispetto, mordendosi le labbra, uscì dal caffè e risolse, contro ogni sua abitudine, di non guardare nessuno e di non sorridere a nessuno. A un tratto restò come inchiodato davanti alla porta di una casa. Sotto i suoi occhi avveniva un fatto incomprensibile. Presso l'ingresso si era fermata una vettura. Lo sportello si aprì e ne saltò giù, piegandosi, un signore in uniforme che corse per la scala. Ora, quale non fu il terrore e insieme la meraviglia di Kavalyov quando riconobbe in colui il suo proprio naso. A tale inaudita vista gli parve che tutto prendesse a girare ai suoi occhi. Sentiva che a malapena poteva reggersi in piedi, ma decise d'attendere a qualunque costo il ritorno del tipo della vettura, tremando tutto come per febbre. In capo a 2 minuti, infatti, il naso risortì. Era in uniforme trapuntata d'oro, col grande collo ritto, portava pantaloni di camoscio e al fianco la spada. Dal cappello piumato si poteva concludere che apparteneva al rango dei consiglieri di Stato. Da tutto il suo contegno appariva che era in giro di visite. Esso guardò a dritta e a manca, gridò al cocchiere «Avanti!», sedette e partì. Il povero Kavalyov era sul punto di perdere la ragione. Non sapeva che pensare di questo strano fatto. E in verità, com'era possibile che un naso, il quale ancora ieri stava in mezzo alla sua faccia e non poteva, lasciamo andare, scarozzarsela, ma neppure girare a piedi, fosse ora là in uniforme? Il maggiore si dette a correre dietro alla carrozza che, per fortuna, non andò lontano e si fermò davanti al mercato centrale. Anch'egli vi si precipitò, facendosi strada tra le file di vecchie mendicanti dai volti imbacuccati, con solo 2 fessure per gli occhi, le quali prima lo facevano tanto ridere. C'era poca gente. Kavalyov era così smarrito che non sapeva intraprender nulla e cercava con gli occhi quel signore da tutte le parti, finché lo vide fermo davanti a una bottega. Il naso teneva il volto completamente nascosto dal gran colletto ritto ed esaminava non so che merce con grande attenzione. Come avvicinarlo? Pensava Kavalyov. Da tutto, dall'uniforme, dal copricapo, si vede bene che è un consigliere di Stato. Esso lo sa il diavolo come si fa. Prese a tossicchiare vicino a lui. Ma il naso non si smosse per nulla. «Illustre signore», disse allora Kavalyov, cercando di farsi coraggio, «illustre signore...» «Desiderate?» rispose il naso, voltandosi. «È strano, illustre signore, mi pare... voi dovreste sapere qual è il vostro posto, ed ecco invece che a un tratto vi trovo, e dove poi? convenitene!» «Scusatemi, non capisco neppure di cosa andiate parlando, spiegatevi!» E come spiegargli, pensò Kavalyov, e fattosi coraggio, cominciò. Certamente io sono maggiore, e andare in giro senza naso, ne converrete, è contrario ad ogni buona regola. A una venditrice d'arance mondate del ponte dell'Ascensione potrà magari starle bene, ma a me, che voglio ottenere, e per di più, conoscendo in parecchie case delle dame, come la Kcektareva, consiglieressa di Stato, e altre, giudicate voi stesso. Io non so, illustre signore, se... Qui il maggiore Kavalyov si strinse nelle spalle... Scusate, a considerare la faccenda giusta, le regole del dovere e dell'onore, comprenderete voi stesso? Non comprendo invece un bel nulla, rispose il naso. Spiegatemi un po' meglio. Illustre signore, disse Kavalyov col senso della dignità offesa, non so come debba prendere le vostre parole. Qui tutto l'affare è, e mi pare, abbastanza evidente, ovvero vorreste, è chiaro, che voi siete il mio naso. Il naso guardò il maggiore aggrottando le ciglia. Mi ingannate, egregio signore. Io non appartengo che a me stesso. Inoltre, fra noi non potrebbe correre alcuna stretta relazione. A giudicare dai bottoni della vostra uniforme, dovete prestare servizio in un'altra amministrazione. Ciò detto, il naso si voltò dall'altra parte. Kavalyov si confuse completamente e non sapeva che fare o che pensare. In quella si udì il gradevole fruscio di un abito femminile. Giunse una dama anziana, tutta parata di pizzi, e con lei una dama minuta, in un abito bianco, che assai leggiadramente disegnava la sua piacevole figura, con un cappello di paglia leggero al pari di un soufflé. Dietro di loro si fermò e aprì la propria tabacchiera un imponente haiduco con grandi favoriti e un'intera dozzina di pellegrine. Cavalioff si avvicinò, rialzò il colletto di batista della sua camicia inamidata, si aggiustò i ciondoli che pendevano dalla sua catena d'oro e, sorridendo a dritta e a manca, rivolse la propria attenzione alla dama leggera alla quale, come un fioretto di primavera, si chinò un poco e portò alla fronte la sua manina bianca dalle dita trasparenti. Il sorriso s'allargò anche di più sul volto di Cavalioff quando egli vide sotto il cappellino il mento di lei rotondetto e di un brillante candore, nonché una parte di guancia soffusa dell'incarnato delle prime rose primaverili. Ma d'un subito egli fece un salto indietro, quasi si fosse scottato. Gli è che s'era rammentato come, al posto del naso, non ci avesse un bel nulla, e gli vennero i lucciconi agli occhi. Si volse con l'intenzione di dir senza imbagi al signore in uniforme che lui si spacciava soltanto per consigliere di Stato, ma era in realtà un furfante e un impostore, anzi non era altro che il suo proprio naso. Ma il naso era ormai sparito, dileguatosi nel frattempo. Certo, seguitava ora il giro delle sue visite. Questo gettò Cavalioff in preda alla disperazione. Egli tornò indietro e si fermò un momento sotto il colonnato, guardando invano a dritta e a manca, non gli capitasse per caso di vedere il naso da qualche parte. Rammentava perfettamente che esso portava un cappello con le piume e un uniforme ricamata d'oro, ma non aveva fatto attenzione al mantello, né al colore della vettura, né ai cavalli, e neppure se ci fosse dietro un lacchè seduto, e nel caso in quale livrea. Oltre a ciò, di vetture ne passavano tante in su e giù, e tanto velocemente, che era difficile perfino distinguerle. E se del resto avesse anche distinta quella che lo interessava, non avrebbe avuto alcun mezzo di fermarla. Era una giornata incantevole e piena di sole. Sulla prospettiva s'addensava la folla, una vera cascata floreale di dame si rovesciava per tutta la lunghezza del marciapiede, dal ponte della polizia sino all'Anichkin. Ecco avanzarsi un consigliere di corte, conoscente di Cavalioff, cui questi dava del tenente colonnello, specie se altri era presente. Ecco Yarigin, suo grande amico, che al Boston faceva la rimessa ogni volta che giocava lotto. Ecco anche un altro maggiore, di quelli caucasici, che agita la mano e gli fa segno d'avvicinarsi. Ah, al diavolo, disse Cavalioff, e il cocchiere difilato dal prefetto di polizia. Sedette nella vettura e solo badava a gridare: «Avanti, a tutta briglia!»